vantaggio sul 2-1, ma c'è un calcio in punizione in favore. Meritata quella della Ternana di Cicudi, Cicu canale 10, c'è qualcuno in ascolto? La mosca trappa il 21. Attenzione Marcolino Condor, sì sì. Attenzione Marcolino Condor, se sei all'ascolto, cambio. E beh, briciola! Su che andiamo, su! Su che andiamo? Attenzione Brigido, se sei all'ascolto. Morellino, ci sei? Ciao Natalia. Oh, buonasera. Allora, oggi mi dovrete sentire un po' più forte. Ho disossidato i connettori. Sì signore, ti sento benissimo Gianfra. Non volevo, non visti comunque il cambio, perché sono quei soliti, quelli col Teflon, ne metto due in coso lì, di quelli, come si chiama, quelli marron. Ho capito, di quelli che avevo ordinato io, adesso non ne ho più di quelli, mi tocca ordinarmeli torna. Infatti, sono piuttosto difficili da trovare quelli che utilizzano l'attacco piccolo, quindi quelli per RJ, mentre si trovano quelli che ci hanno il raccordo, no, per impicciolire il diametro. C'avevo proprio di quelli che hanno il raccordo con l'affare Marro, capito? Sì, ne avevo preso un bel po' da, credo da Amazon, insomma non neanche me lo ricordo. Neanche io mi ricordo dove li avevo presi, una decina ne avevo presi. Sì, anch'io. Anch'io ho dovuto mettere lo squelch quasi al massimo, perché c'è parecchia propagazione. Caffè lo stesso, anche io ho lo squelch. Oggi è domenica, stanno tutti in giro a divertirsi. E beati loro. E adesso dovrò cominciare a uscire pure io, perché mi hanno ordinato questa vitamina D e dice che bisogna prendere il sole anche. Eia, vengo io a passare anche la crema. Vieni, vieni Manuel. Buonasera a tutti, ciao Natalino, e non ho capito l'altro amico, mi sembra Gianfranco, mi sembra. Sì, confermo, buonasera, buona domenica. Non so, forse ci siamo sovrammodati. Confermo, è Gianfranco, buona domenica. Sì, ciao Gianfranco, non so se mi ascolti. Sì, certo che ti ascolto. Dove sei, perché? Latte dolce. A Puglia. Ce l'ho in linea ottica. Allora, riprende Natali. E perché c'è un antennino Manuele, capito? Ed è per quello che magari qualcuno non lo sente. Sì, ma anche un antennino se è un pochino in alto, magari a seconda del piano già può andare, dai. E io lo sentivo anche quando ce l'aveva dentro casa l'antennino, l'ha tolto fuori adesso e c'è più forte. Avanti Emanuele, in che zona sei di Serate Roggio? Dove c'è, lo sai dove c'è la Bretella? Sì, dove c'è la chiesa anche. Ah, lì, proprio di fronte alla chiesa. Ah, ho capito. Nel piazzale che c'è, sì, c'è un piazzale, non mi viene, no, comunque c'è anche stamane, guarda. È il piazzale dei Priti, è quello è il piazzale della chiesa sempre. Infatti, beh no, ci sono tante macchine anche di chi ci abita. È così. Oggi siamo in giornata, strana, sembrava che dovesse capitare chissà che cosa, invece ha migliorato. Boh, ne capisce bravo. Era solo sabato e domenica che era brutto, che aveva messo. Da domani dice che torna bello. Io ho sentito che poi ritorna al brutto, ancora più brutto. Boh. Non capisce più niente. Natali, non vai al mare? Natalino? Ero al telefono, Gianfra, mi stava telefonando alla 50, capito? Non si fida a lasciarti da solo, non si sa mai, con tutte queste ragazze che ci sono in giro. Infatti non si fida, è una fidata quella lì. Così, bisogno bisogna che non si fida. Ui. Sono sempre in prigione qua, mi sembra di essere in prigione, non sto più uscendo tranne qualche volta. No, io adesso già me ne vado al mare, cavolo, se comincia a fare bel tempo me ne vado al mare, ogni mattina prendo e scendo, come fa Bruno. Bruno ogni giorno scende lì alla torretta. Ci vuole andare a cambiare aria, non va bene stare sempre chiuso in casa, non va bene, bisogna schiarirsi le idee pure con l'aria pulita, la mattina presto bisogna scendere, fare una camminata, dove c'è quella specie di laghetto, c'è la passeggiata che fanno lì. Io ho capito. Poi ci sarà anche Bruno lì, lo troverò. L'altro giorno sono sceso così. Io sono sceso di mia iniziativa ed era lì lui, ci abbiamo preso il caffè assieme. Ehi, ehi, riprende già fra. Sì, è così, ma vabbè, io stavo anche sentendo nel frattempo che sto parlando pure con una traduzione, perché oramai questi scrivono solo in inglese e quindi bisogna cercare di capire quello che vogliono dire, ma almeno fossero fatte bene queste traduzioni, per carità, o meglio, è già lo scritto in inglese che è tutto fatto in maniera molto provvisoria, solito manuale. Allora Natale, cosa mi racconti? Ci riprovi? No, tocca scendere a Cagliari, è un macello, non fa, capito? Ah, no, ma sempre per la stessa cosa o per altre cose? No, per quella cosa lì tocca scendere a Cagliari e io non riesco a camminare, quello è, faccio pochi metri, mi viene un dolore allucinante alla gamba, no? Non ne ho voglia poi di guidare per più di 200 km. E beh, in autobus, in quelle cose lì non c'è possibilità. Io non lo so, io quando sono andato in macchina con altra gente, capito? In due notti che dormo male. Non lo so, in autobus, cioè, e poi te ne devi alzare alle 5 del mattino, te ne devi alzare, perché alle 8 devi essere lì. A Cagliari, per Cagliari, 18 euro è il biglietto, Natali. Lo so, ma ti ne devi bisogna chi tu, pur quando in macchina, ti ne devi bisogna rigiunque di Manzano, a che all'otto devi essere in Chivi, capito? Per me non va tanto bene così, andava meglio online. Non c'è nessuno, non trovi nessuno che ti possa accompagnare, no? Negativo è a chi trovo. Doveva andarci un amico mio, ma no, non ci va neanche lui. Adesso non ci provo nemmeno adesso. D'altronde. Se non puoi camminare è un macello. Qua c'hai dolori alle caviglie. Oh, non mi arriva sangue alla gamba destra e ti viene questo dolore allucinante. Adesso sto sempre da un ospedale all'altro facendo visite, controvisite. L'altro giorno per fare sono dovuto uscire a Tisi per portare i reperti di queste visite che ho fatto. Ho dovuto fare questi esami del sangue, manco a pagamento me ne facevano. Sono dovuto andare al Palazzo Rosa perché sono esami particolari, poi uno non me l'hanno fatto perché non avevano reagenti. Però quasi tutti gli altri sì, e mi ha ordinato questa vitamina D, l'endocrinologa, quella di Tisi, e sono sceso lì a Tisi con un amico, sono andato e gli ho portato tutti questi reperti, un'ecografia che ho fatto al policlinico. Adesso mi ha ordinato, sì, ma non faccio più nulla, basta, tanto non c'ho nulla e buco. Macella, sta studiando la sanità, è un disastro veramente. E io ho mandato già, anche io devo fare dell'analisi, ho mandato tutto. Però si è fatto, sono già 3 giorni che non si fa vivo nessuno. E poi ci hanno messo più di una settimana a consegnarmele queste analisi, addirittura si è messo di mezzo un amico, se no non me le avrebbero neanche date, figurati. Me le ha mandate via email, questo qui, molto gentile, è proprio quello che è il tecnico che fa queste analisi qua. Ed è il cognato di un amico mio. È veramente una cosa allucinante, sta diventando questo. Bisogna avere le raccomandazioni fra poco anche per avere delle banali esami. Sì, anche io ne devo fare una che purtroppo fuori mi ha detto che non fanno, tutte le altre le ho fatte in un giorno e me l'hanno consegnata l'indomani, figurati, in quello di Via Umberto. Però una non la facevano. Cioè siamo messi bene qua a Sassari, per carità. Sono andato prima a Latte Dolce, poi Viale Umberto, Policlinico, San Pietro, al centro lì dove fanno i prelievi. Nessuno, manco a pagamento me ne facevano. Solo al Palazzo Rosa me l'hanno fatto. Insomma, come al solito, dai. Vabbè, oramai ci dobbiamo fare l'abitudine a tali. Facciamo finta di essere come 200 anni fa, che il medico era un lusso per pochissimi, e così dobbiamo fare noi. Avanti, Emanuele. Vabbè, Natali, bisogna fare sacrifici. Se vuoi fare quella roba lì, devi fare quel passaggio lì, pesante nel zinco e alle 8 si lì. Ma andare in macchina non ce l'ha andato di certo sicuramente, in pullman sì. E vabbè, poi bisogna vedere se c'è presto, perché alle 8 devi essere lì, capito? Alle 8 e mezzo mi sembra che si entra lì per fare questo benedetto esame. Ma poi io mi sono disgustato, la verità è anche perché sono disgustato che non ne voglio fare. Il pullman dare sì, mi stanno a viaggiare, il pullman dell'asse. Davvero? Se patale sì, non so se ce la fa, ci impiegherà almeno 2 ore e mezza, 3 ore, autobus. E magari forse 4 ce ne impiega, andando, 4 ore ci vogliono andare a casa. Ti conviene rispetto alla macchina, perché con la macchina, con la benzina com'è adesso, si spende parecchio per scendere a Cagliari. E io ho la mia che è diesel, 1.900 turbo diesel, cioè non consuma nulla. Ma cosa ti chiedono? Non è scritto, no? È soltanto anche lì orale, 5 domande, così è. No, ho scritto 50 domande, insomma. 50 euro! Quante? 50! Ma che parole non vogliono far entrare nessuno, no? Di quante ne vieni ordinari di queste 50, quante devono essere esatte? 49. No, almeno 30 penso. Sarà così. Adesso non me lo ricordo com'è. Comunque una percentuale c'è. Almeno 30 devi rispondere. Boh. Vabbè. Non so, vedi tu, tanto la situazione, come diceva qualcuno, è sempre più losca. Si lamentano che non ci sono radioamatori e poi ti mettono in difficoltà, ma io l'avessero lasciato online, che uno da casa sua, specialmente uno che è disabile come me, poteva farlo senza troppe scomodità, perché è una cosa scomoda scenderci a Cagliari per me. Sì, adesso lo sto guardando perché voglio vedere un po' com'è. E 50 domande sono, c'è 4 ore di tempo per rispondere. E comunque loro ti danno le risposte e tu devi fare quelle esatte, sono dei quiz in realtà. Sì, sono dei quiz, quelli a risposta multipla sono, come la patente della macchina. Là. L'importante è che siano chiari. E io sono da molto che non ne faccio, quindi adesso non me lo ricordo com'era la situazione. L'ultima volta c'era pure il compito da svolgere. No, qua parla solo di domande, sto leggendo il decreto, quindi. Dice che sono 50 domande. Io se può cuomare. Mia Luca, ciao, buonasera Luca, appena entrato. E cosa vuoi che ti dica? Questa mattina mi sono piegato, questo mal di schiena mi è venuto. E ce l'ho ancora. Ehi, allora, ciao a tutti, ciao Natalino. Non so chi ci sia, boh. Sono qua, mi sto mangiando due pezzi di pane guttiao. E c'è Fiorellino, c'è qua Gianfranco, io. Salute a tutti, Ginko, vabbè. Vabbè Lu, buonasera. Ma com'è, ti sento bene, cavolo, meno male. Ciao anche Gianfranco, avanti. Sì, buonasera Luca, stavo leggendo il decreto, sì sono, devi superare il 60% delle domande, quindi 30, e sono divise come sempre tecnica e poi procedura, tutto lì. Infatti, a me se vado mi bucciano, cosa ci vado a fare? Mai dire mai. Sì, già lo so, ma visto là, l'ultima volta. Ero il primo del corso e mi hanno bocciato lo stesso. Poi dice che le fanno a novembre, li fanno questi esami. Beh, a novembre non starà meglio. Non vorrei rimanere sempre così. No? A novembre posso essere anche morto, non lo so se ci arriva a novembre. E tanto lo sai, te lo fanno fare lo stesso, cambi solo la sede. E se sono morto me lo fanno fare a San Paolo do Brasile. Ma ti fanno domande che sei già, no? Ti fanno la domanda e ti dicono dover mettere la crocetta, capito? Perché su sono tutti bravi. Vedi. Vabbè. Ginko. Vabbè Luca, cosa sei combinelli? Signorello che fai? Come era passarla un po', un bel forte. Ah, già va bene, sì. Ehi, un bel forte, devi abbassare un po', vero? Oh, sono io. Se sono tu che mi devi abbassare. Oh, secondo voi? No, già è forte la radio, Manuè. Cazzo, come me lo metti in via? Vai forte. È come l'amplificazione, Aemi. Guarda, faccio un esempio. Io ce l'ho a 5. No, adesso lo metto a manezza. Non so come mi senti, va bene? A voglia, va benissimo. E a te lì, va bene, lo stesso. E abbassate però che mi state facendo sordo, cazzo. No, mi metto i tappi nelle orecchie. Già mi fa male la schiena, voi mi volete rompere anche i timpani. Ho detto, ci vuole un po' di cervecina alla schiena, una carina. Se vuoi ti passo la cremina, che ti passa tutto. Ehi, aiuto, vieni, senza guastare niente, mi massaggi bene, piano piano. Tranquillo, anche nel mosciapico ti faccio passare. No, io sui miei bazzinari, dalla parte sinistra, mi sono piegato stamattina a raccogliere non mi ricordo cosa, mi è venuto questo dolore, il colpo della frusta deve essere. Ehi, io già ne so qualche cosa, sono con gli animi, sì. Io vieni che così, che tu c'hai le mani sante, piano piano senza guastare nulla. Mamma mia, lì devi prendere qualcosa di qualche bustina, occhi task, qualcosa di bluffe per dolore. Non ne posso pigliare di quella cosa e prendo la cardiaspirina io e non mi fanno effetto, hai capito? Non ne posso prendere, no? Se no non me l'avevi appigliato, non ho preso nulla e basta. Che cazzo, che hanno mai dolore così, lo sapevi, va, dentro i dolori. Mi rodevo di lì, e ci sono così, li sono incannizzato. Cazzo, a provare a fare un po' di movimento, a muovere da una parte all'altra, piano piano. C'è un dolore allucinante. C'è... no... cosa lo prendo a fare? Non mi fa effetto, elimina l'effetto di quella, di quelle medicine lì, la cardiaspirina, capito? Io, per carità, vai tu, vai Luca, non vuoi più, Gianfra. Sì, ho finito e devo testare un apparecchio da un'altra parte perché ho finito di fare la configurazione. Ok, riprendi Natalia e se mi libero ci sentiamo più tardi. Buona serata a tutti per adesso. Ehi, ciao Gianfra, buona continuazione di serata, dai, alla prossima, buona Natalia. Ehi, ciao Gianfra, dai, buon tutto. Ci sentiamo un altro momento, dai. Cerca di farti sentire. Ok, avanti Luca se sei in ascolto. Guardate pari, ciao Small Ferry Luca. Cazzo, quanto magari adesso mi piace di passare a Galmoara a mezzodì. Oh yeah, una bomba io. Sì, me lo posso immaginare, Emanuele. Io pure la faccio bene la carbonara, Cazzo, ma pesata vedo, ragazzi, un bel pesante. Cazzo, ce l'ha ancora sullo stomaco, a vedere. Io la faccio bene veramente la carbonara. Io ho già mangiato di quelle fettuccine, anni di rondine, quelli lì, al ragù. Poi ho mangiato fettine impanate, patate al forno e tine a campà. Buonanotte, chi è che vuole parlare sotto? Fai entrare Natalia. Aspetta che non lo sentivo, c'avevo lo squelci a manetta io. Avanti, chi vuole entrare? Ho visto la portante e buh. Anche io, ma non mettendo la voce. La portante solo metteva però Radio Nisba. Insieme si apposta il tempo, dai, si è calmato il vento, cazzo aveva un vento a minuti. Me la posso immaginare, domani mattina se fa bella giornata me ne scendo lì alla torretta a vedere se c'è Bruno, che ci vediamo un caffè in pari. E a Bruno, ragazzi. E lui scende ogni mattina lì, capito, si legge il giornale, si piglia il caffè lì al bar, insieme all'amico suo Antonello, poi gli devo dare pure cosa io a Bruno, è per quello che scendo. E non fate bene, intanto a casseretta andate in casa, cosa rifare? Bisogna cambiare l'aria, Natalino, bisogna cambiare. E tanto ormai è in pensione, e quindi io la vado in casa. Ha ragione, figlia se ne scende giù. E beh, rientrato sì, Luca, Lucariello, alla Zucca, la legge in vini vini, va a casa. Starà mangiando, capito? Stava mangiando poco fa quando è entrato. Oggi nulla, non mangio stasera, mi sento pesante, un bel pesante oggi, basta, domani mangiamo. Se ci vuoi a carbonare è pesante, cazzo, io la faccio bene con questa cremina, ma adesso quanto mi esce bene, me l'aveva insegnata a fare un fuoco a me quella lì, e adesso sono da un bel po' che non ne faccio. Cazzo, è una bomba. No, io domani, adesso stasera non mangio, domani mi faccio due uova con cipolla, domani mattina quando mi alzo è una baguette. Vedi, beato a te che lo puoi mangiare il pane, io manco pane busso mangiare. Che cazzo? Mani agutiavo. Sono diabetico io, capito? I carboidrati mi fanno salire la glicemia. Beh, il gottiano non puoi mangiare. No, se ci sono i carboidrati, è quello che ti frega. Quando mi mangio mezzo panino ne gavo la mollica, mezzo mi, non uno, ne manco uno, mezzo. Vai, se no ti vado in alzare la glicemia di Selli. No, oggi per esempio non ne ho toccato niente di pane, perché ho mangiato le patate lì e lì si ti vado in alzare la glicemia. Così è brutto, Così è brutto, non puoi mangiare niente, devi stare attento, ogni cosa che mangi. E purtroppo è così, io insulina non ne faccio, me ne facevo 4 di insuline. Adesso solo la notte e ne faccio pochissima, 6 unità solo di insulina la notte, di quella lenta, che mi dura tutta la notte. Poi per la mattina prendo una pastiglia. È brutto, bravo, ci sono queste cose così. Io grazie a Dio per adesso è tutto a posto, c'ho solo il colesterolo un po' alto, però non è tanto alto, dipende da quello che mangio, se mangio formaggio mi sale, ma non più di tanto, però così ha detto il dottore. Io ho capito, io quando non va più il diabete me ne mangiavo mezzo chilo di bani. E adesso purtroppo vedi, però stavo attento, me ne toglievo la mollica, perché sapevo di essere predisposto al diabete, che avevo mia madre, mia nonna, mio nonno, tutti diabetici, gatta. Avevo fatto pure la curva di carico io per essere sicuro. E non ho già dubbiato e non mi è giunta la pancreatite. Quando mi è giunta la pancreatite mi hanno acciappato la glicemia alta all'ospedale e mi facevano l'insulina prima di mangiare. E chi mette portante l'ala qua si sente solo il fischio sotto. Solo il fischio sotto, non lo passi, vai a te. Sì, ci mancherebbe che mi passasse pure, se mi passa è vicino a te. Ah, è bello sentire un fischio sotto, e non te che cazzo è un po' importante. Sì, lo so, e cosa vuoi fare? C'è gente che si diverte così. Ma per carità. E c'ho 4 watt solo in questo apparecchio, non ho niente per poter salire. Cazzo, quello che avevo prima, visto sì che era un apparecchio. Invece va giudice omologato, che no, più di 4 watt non dà. questo qua è lo stesso da 4 watt, mi dici te boom. Sono 4 watt, cazzo va 30 anni che radio. E già tanto che scendi, pensa tu. No, questa già è nuovo, è Superstar 3009, è solo che è omologato e quindi è tutto chiuso. E per avere l'apparato omologato devo lasciarlo così. Se tocca il sigillo non ti fanno più la garanzia, non c'è più la garanzia della radio. No, non ce n'è sigillo, però è chiuso, capito? Non c'ha canali, c'ha 40 canali solo, c'ha tutto, AM, FM, SSB, c'ha tutto, però no, più di 40 canali non ha, capito? Ma lui puoi mettere anche la scheda per gli altri canali, però. No, se aumento la potenza è perché no? Questo si può aumentare fino a 12 watt mi sembra in AM. Lo devo disfare. No, tiralo su. Passami. Sì, già passa. Oh, yeah. Scendi giù. Ti volevo dire, c'ha anche tutti i canali, mi volendo, io sposto uno di quei jumper e c'ho tutto quanto, però non è più omologato se gli faccio quello. Io vabbè, omologato, ormai non ci siamo né più cosa giamma. Ma se dopo vengono a controllarti, a me sono già giunti ai nodi miei a controllarmi. Non fa, caro Ginko, io ce l'ho per quello questo apparecchio, perché è omologato. Andare. Vediamo un po' se è arrivato Luca, si è arrivato. Sì, sono qua. Sono i nodi, no, mi stavo chiedendo un preventivo per il sistema di un telefono. Questo è un bel display, peso ginocchi. Ascolta a me Lu, ti volevo chiamare l'altro giorno dopo me uscita la testa, ma tu riesci a collegare tutti i cavi dall'amplificatore all'equalizzatore e un casotto, tu riesci, capisci qualcosa Lu? Sincero non l'ho mai fatto, non credo, ci sono tanti fili, non l'ho mai fatto. Cazzo, era la luce a rovinare, va, ci sono nervosi molto, cazzo. Vai, vai! Manuele! Ciao, Tony! Ciao, Lu, chi c'è il soggio, Manuele? Cinco, non lo senti, Antonino? Mi si è spostato, se non già risponde. Ciao, Tony! Sì, ciao, Tony! Bobo, chi c'è andato a mangiare? No, oh, dici che si è fatto la carbonara e viene ancora in un'altra di sciogamo, ha detto. Magari si sarà spostato a fare qualche altra cosa e non può rispondere. Se la risponderà subito. Chissà quanto ha mangiato la carbonara, una vaccinella. Questo non lo so, so che ha mangiato la carbonara e che era troppo pesante, ha detto. Se ne avrà mangiato una vaccinella, cosa vuoi ti dica? Un attimo che mi chiamano al telefono. Eccomi. È entrato Donino e tu non l'hai riposo, che? Ho chiamato al telefono. Al telefono, Natalia. Ecco. Ha capito Lu? Ehi, ho capito. C'è un casino di filino, Manuel. Lo dovrei vedere, ma... Cazzo, non è che sia la passeggiata. Lo so, infatti adesso prima di battere la rumata se sbaglio, lo posso controllare, fammelo collegare bene tutti i cavi dove vanno, l'amplificatore, l'altro equalizzatore, l'altra ancora aggassando alle doppie casse, è un casino. Non ci ho mai piazzato, cioè ti direi una palla. Cazzo, c'ho due casse per via 250 a via. Ma vorrebbe pompare allora. Cazzo se pompa. Cazzo se altro che se mi arriva la chitarra di sopra. Ah, vado a casa . E allora? Da vedere, non lo so Manuel. Non lo so, penso che abbiamo dei colori fili, C'è i colori, ci sono tutte le scritte, c'è scritto amplificatore, c'è scritto... Ma è un casino però, è un casino. Boh, è da vedere. Capito. Ripeto un attimo che devo aprire un telefono. e K. Aspetto, facendo una cosa, dai, rimango in ascolto, vi ascolto e poi, perché subito devo mangiare, là, ci sentiamo più tardi se ci siete. Sì, va bene, Natali, tranquillo. Briciola! Uno va sotto, buia, perché c'ho lo stadio tutto a cosa, no? Ognuno c'ha il suo coso, c'ha la piazza, c'ha l'equalizzatore, c'ha l'amplificatore, un casotto di collegare, cosa ti posso dire? L'equalizzatore va su amplificatore, io non uguale, no? Sono uscito di gabbla qua lì. Beh certo. Adesso vediamo un po' con calma quando sarà, ma guarda già di gabbla alcuni, non so se è il finale, io ho detto il finale, magari c'è qualche due, qualche fusibile. Qualcosa sarà, vabbè, se parte il fusibile vuol dire che c'è un danno da qualche altra parte. Non lo so, vabbè, comunque non ho preparato per domani, detto che non guardavo per domani. Davvero? Camari! Che parla? E te che ne sei fende i due? Tu che hai già bisogno? Camari! Che te parla? E muove andiamo! Non te abbiamo! Ebbene, ancora nulla, Ollu, non ti hanno chiamato. No, dopo quell'intervento che ti ho detto. E che intervento? Al naso. Ah, non l'ho fatto ancora? No, no, ho fatto solo le analisi, allora ho fatto prelievi del sangue, l'elettrocardiogramma e poi la visita con l'anestesista. Ha pagato hai? No. Ah, c'è l'esenzione? È tondo. Ah? È tondo. Ah, anche se no devo alzare il bagaglio. Beh. Io ho fatto da Lomberto tutto quanto. Vabbè, quella del cuore l'ho fatta in via Armando Diaz, su Salendo, dove c'è Zanerante, vicino all'hotel. Sì, ho capito. È un casino queste visite, è un casotto. Io lo so, purtroppo. Cosa arriva? Purtroppo bisogna farlo. Quando arriva ai 50 devi fare tutto, tutti i controlli che ci siano immaginabili. È proprio così. Poi devi fare la visita alla prostata, Lucca, anche quello devi fare. Va bene che tu ancora 50 non li hai fatti. 2 anni mancano. Sì, devo farla, devo fare anche quella. Manuele, il litiotto lo infilano, eh. Cazzo di erba, fosse accaduto una bella femmina invece. Può capitare anche una donna? Sì, non se ne fa la donna, lascia perdere. Perché a me non mi ho controllato una donna? Una grande era, mi ha controllato. Sì, ma queste visite qua la prostata non te ne fanno. Ma tu non hai visto la tua malattia che è successo lì a Roma? No. Cazzo, a poco niente cazzo, no, a poco Roma musurata e poi senti i gambisciuli. Che cazzo, bebè, la caretta. Anche lì dalle zone di Patala pure c'era questo vento forte, a me che già mi abbonerò che vento, ma tempo tromba l'aria non aiuta, no, se arrivi no che una tromba l'aria si sbocca un altro vero. L'altro ci ha vinto il campionato. L'altro ci ha vinto il campionato. Oh, è la ora. Ciao no, Mari, sì sì. Ah, è tu Cadus. E ci avresti nel 23. Hola. Che è va? 1, 2, 3. Prove tecniche di trasmissione. No, su 10 non c'è nessuno, sono su 23. Ah, io 23.